A Radio Città ti dico solo le ore 15. Radio Città Fujiko è lieta di presentarvi Easy Pop. Conduce in studio Franco Paoletti. Regia del Bolognese Volante. Are you ready? Okay, here we go. Switzerland. La Svizzera. From the public. Dal pubblico. You have received. Hai ricevuto. Ritorna anche prima. Vince Nemo. Eccola in onda, Paoletti. Ebbene sì, ben ritrovati, sintonizzati. Ciò che abbiamo appena ascoltato è un documento che rimarrà nella storia, perché trattasi della finale, appunto, dell'Eurovision Song Contest, dove praticamente ha vinto, come ormai dovreste sapere, la Svizzera. Mentre per quanto riguarda l'Italia ci siamo posizionati in settima appunto posizione con Angelina, che si è difesa bene. Che brava, dire? Angelina. Alcuni dati, sì. Alcune note. Qua, allora, qua dopo il voto delle giurie di qualità, prima era la Svizzera, seconda la Francia, terza la Croazia, quarta l'Italia. Il televoto ha stravolto un po', come al solito negli ultimi anni, tale classifica, attribuendo a da notare che la canzone dell'inglese Olly Alexander, che rappresentava, sì, appunto l'Inghilterra, sì, una specie di facsimile dei Pet Shop Boys, quindi un po' datata magari, sì, ha preso zero, sottolineo, zero voti da tutta Europa. E io mi chiedo, ma com'è possibile? Vabbè, andiamo avanti. L'Italia di Angelina Mango ha preso invece soltanto 104 voti. La Francia di Slimane, che abbiamo in sottofondo, 227. Ma chi ha preso più voti, Paoletti? 307 punti l'Ucraina, 323 punti Israele, ma in assoluto ha avuto più voti dal televoto la Croazia, con 337 voti, a sorpresa direi. Ed ha vinto invece la Svizzera con Nemo, con 223 voti dal televoto. Da notare la uniformità quest'anno alla fine dei voti fra le giurie di qualità, che già avevano premiato la Svizzera, e il televoto. E uno dei favoriti, l'Olanda, è stata squalificata per motivi che ancora non ho capito, ma è un mio limite evidentemente. No, certo, le sue perplessità sono anche le nostre, ma del resto insomma vedremo di approfondire il tutto nel proseguo appunto delle trasmissioni, non solo di Easy Pop ma ovviamente della redazione musicale, perché so che c'è ogni tanto questa incursione di Eddie Anselmi, che era lì, ma insomma noi abbiamo avuto anche altre fonti proprio di prima mano dell'ufficio stampa, che erano lì, perché le nostre fonti sono veramente tante. Allora, come diceva, sottofondo invece abbiamo quella che secondo noi di Easy Pop è moralmente la canzone vincitrice, anche secondo Mara Maionchi, per dire. Sì, è una canzone tradizionale. Lei, visto che hanno detto, certo, che è un Mara Maionchi di Easy Pop, di Easy Radio Città Fujiko. Sì, esatto. Esatto. Ascoltiamo, sì, un attimo. Si tratta di Slimane con Mon Amour. Mon amour, je ferai tout ce que je peux. Un océan dans le feu, l'impossible si tu le veux. pochi effetti speciali per Sliman, una gran voce, un testo classico di quelli di una volta, certo. Una ballad tradizionalissima, una bella, diciamo, voce, eh? Sì, una gran bella voce, bella estensione, e diciamo che stonava un po' lì in mezzo a tutto quel purpurì, quella kermesse. Si stonava, era... nel senso che era un pesce fuor d'acqua, sì, probabilmente, esatto, da solo, vestito quasi normalmente, senza balletti, senza niente, con un microfono stava fermo lì, non si muoveva. Il tradizionale cantante, esatto, da Sanremo. Un po' statico, diciamo, rispetto alla norma che si era vista. Class prima. 1989, un talento nato, pensi un po', da YouTube, consacrato da The Voice Francia, noto semplicemente come appunto Sliman. Questo cantante, pensi un po', la sua carriera ha avuto inizio in maniera quasi casuale, perché da quando aveva 19 anni ha iniziato a pubblicare cover sulla sua piattaforma, insomma, YouTube. Per farsi conoscere, piano piano, insomma, gli è arrivato il contratto discografico. E che dire, queste sono le storie che ci piacciono a noi. Mentre del vincitore Nemo non mettiamo nulla, perché ormai la giuria già cantava la sua canzone ieri sera. Sì, effettivamente è così, cioè è talmente popolare, è già entrato nelle orecchie, sì, entrerà anche nei nostri circuiti a breve, chi presumo. Lo sa. Invece, un brano che a me è piaciuto molto e che è già finito nella Compilation Dance di quest'anno, di, sì, di la sua, perché la lei, mia, sì, esatto, è quello dei due svedesi gemelli Marcus e Martinus, che si intitola Unforgettable, che ci sentiamo e ci ascoltiamo adesso. È una grande disco dance questa. She goes late at night when I praise the sleep, make your eyes go blind. She gon' chew you up, leave you empty, hollow, then she spit you out. Anyway, I follow, she gon' hurt you back. But if it's so good, I don't care. No, I don't care. You better know she's dangerous. She is unforgettable. And it feels so good. I brani synth pop dance erano parecchi quest'anno all'Eurovision Contest Song, ma questo è quello che suona più secondo le corde di Easy Pop, e quindi finirà appunto nella Compilation Dance. Sì, sì, è proprio così. Allora, io voglio anche ringraziare tutto lo staff di Fare Musica Dintorni, e nella fattispecie Adrien Viglierco, sì, che cercheremo di intervistare, insomma, prossimamente, che insomma ci ha dato una gran mano nel raccontarci anche il dietro le quinte, perché ci sono state delle polemiche per quanto riguarda l'Olanda, per quanto riguarda, insomma, sembra che Angelina abbia protestato, insomma ci sono stati dei tafferugli, insomma del dietro poi le quinte, non so, sembra che ci fosse anche Greta Thunberg, quindi veramente addirittura c'è stato un po' di maretta, un po' di grandi avvenimenti, grandi caos anche al di fuori, mentre loro erano dentro alla bolla. Appunto, queste bolle qui, va bene. Comunque, ringraziamo appunto a Fare Musica Dintorni, insomma, i nostri inviati, anche di Anselmi, che ci spiegherà in lungo e in largo, insomma, come ha vissuto il tutto. E noi vi abbiamo tenuto proprio così, così abbiamo tenuto l'attenzione alta. Ecco, diciamo, poi insomma, eravamo un po' di parte per via di Angelina Mango. Ma comunque, è andata comunque bene. perché appunto per una sconosciuta arrivare al settimo posto, complimenti, perché erano tante le squadre e tutte combattive. Molto. Quindi ecco, bene, a questo punto voltiamo la pagina, con Easy Pop la parete di Eurovision Contest Song 68esima edizione, Paoletti, quindi mica però, pissi pissi bau bau. Ah, però insomma è più grande di me, già, mica male, mica male. Allora noi voltiamo pagina e abbiamo una cantante e cantautrice che si chiama Cleo Schiappacasse, nata a Imperia nel 96, ha sempre avuto la passione per il canto e la recitazione, e arriva praticamente con questo nuovo singolo che si intitola Crisalide. Ascoltiamola. Questi sguardi questo è facile da ricordare, qui tutto un altro ritmo rispetto a quello che abbiamo sentito in questi giorni a Malmo. Sì, sì, questa è una cosa molto più pop, molto più rilassata, tradizionale. C'era un po' di movimento là, diciamo. Direi proprio di sì. Allora, forse anche troppo a volte. Non abbiamo ricordato che state ascoltando Easy Pop insieme a Franco Paoletti, che vi sta parlando, e ovviamente al di là del vetro il bolognese volante che è entrato di prepotenza con così l'inno europeo, no? Per della Eurovision. Ormai è tradizione, qualche anno che facciamo così, Paoletti. Sì, effettivamente, però insomma va anche detto che siamo sui 103-100 modulazione di frequenza. E diciamolo. E che poi c'è il 333-180-94-94 per dire la vostra. Siete SMS, contenti? WhatsApp, Telegram. Esattamente, siete contenti di come sia andato l'Eurovision Song Contest? Oppure no? Insomma, ditecelo, potete raccontarcelo. Fatecelo sapere. Anche perché io non so in quanti hanno visto il programma. Mi sembra che ci siano buoni indici d'ascolto, nel senso che comunque la Rai non si può lamentare. Così non dicono. Si è lamentata. Però questo però è quanto. Noi andiamo avanti con Paoletti, un personaggio pugliese, si chiama Mariano Casulli, ed è prodotto da Tal Molla, che è, insomma, è un grande famoso producer, ormai famoso, è entrato anche nelle orecchie per quanto riguarda a casa nostra, e quindi lo stiamo supportando ormai da un bel po' di tempo. Dicevamo, Mariano Casulli ci prepara, ci fa ascoltare questa La Fine. Chiedo tutti i giorni, il sole non c'è, oppure si affaccia timido tra le nuvole. Lo chiedo quando basta, fare finta di niente. La macchina nel parco, un sorriso beffardo, un sabato di ottobre. In mezzo alla gente c'è confusione, vorrei restare solo disteso sul filo di un aquilone. Cosa c'è dopo la lo sai. Cerco ancora una scusa per capire che cosa c'è dopo la fine. L'ho chiesto al telegiornale, ad un libro, un passante, ad un pazzo. La tua risposta non basta, la cerco in un cassetto pieno di polvere. Una lettera, una rondine, e ti chiedo scusa se non sarà quello che vuoi. L'hai cercata, l'hai trovata, ed ora lo sai. Ora lo sai, ora lo sai, ora lo sai. Di stampo tradizionale questa sì, canzone molto. Di Mariano Casulli dal titolo La fine. Questo è il suo quarto singolo per quanto lo riguarda, in attesa di buone nuove. Lui continua insomma nel cercare e ritagliarsi il suo spazio. Complimenti anche a lui. A questo punto passiamo invece alla prossima selezione musicale. Cosa abbiamo, regia? Piatto numero 2 abbiamo Kimono piena di sé. Dopo Paoletti ce ne parla. Assolutamente. Lei è piena di sé, di ma perché la notte che cos'è quando non c'è? E potrei dirti che non ho bisogno di una come te, irraggiungibile, non posso fingere, vorrei che fossi qui, lo so che è inutile, parlo alle nuvole e provo a dirmi che vorresti stare una notte sola con me. Lei è piena di sé, di me, perché la notte che cos'è quando non c'è? Dove è andata la luna questa sera? La vedo nei tuoi occhi, luna piena. Lei è piena di sé, di me, perché la notte che cos'è quando non c'è? Come te non c'è nessuno. C'è chi crede nelle stelle, c'è chi ci vede il futuro. E cerco te ogni notte che passo da sola. E so che tu sai tutte quelle cose che non ci potremo dire. Nella notte tutto tace proprio come piace a me. E vedo te ogni volta che guardo la luna. Piena di sé, di me, perché la notte che cos'è quando non c'è? Lei è piena di sé, di me, perché la notte che cos'è quando non c'è? Dove è andata la luna questa sera? La vedo nei tuoi occhi, luna piena. Lei è piena di sé. Kimono piena di sé, anche questa rimane questo ritornello molto semplice. Sì. È una voce che già conosciamo, perché Kimono, il nome d'arte di Sofia Tornambene, nasce a Civitanova Marche nel 2002 e poi piano piano insomma si dedica alla musica per approdare, attenzione, nel 2019 partecipa a Sanremo Young classificandosi al terzo posto, ma c'è di più, perché poi sempre nel 2019 diventando mi sembra maggiorenne partecipa alla 13ª edizione di X Factor e lo vince. Da lì arriva il suo contratto discografico con la Sony, si trasferisce a Milano e inizia insomma la sua carriera, che ha preso il volo con il suo primo EP che è andato bene. Questo è il suo nuovo singolo. Nel frattempo è volata anche a New York, se non sbaglio, dove ha presentato e dove ha vinto anche il New York York canta, questo festival della musica italiana a New York, e quindi si è fatta conoscere anche in quella così in quella regione, dico regione come paese, insomma, come paese americano. Quindi piano piano la sua popolarità, insomma, deve giostrarsela tra l'Italia e l'America. Complimenti, perché non è da tutti. E poi questi talent alla fine, insomma, qualcosa di buono lasciano, eh? Beh, anche nel Eurovision Contest Song parecchi, quasi tutti venivano da dei talent, eh? È vero, quasi anche questa tutti. Cosa quasi tutti, chi da, insomma, The Voice, X Factor, insomma, questi musical, talent questi in genere, talent. Dai nomi più variegati a quelli più già conosciuti, ma erano tutti lì, eh? Esatto, curiosa questa cosa, però effettivamente Ci sono questi adesso, adesso ci sono questi, evidentemente. Noi avevamo un festival bar, quelle cose un po' più classiche, un festival bar, non ricominci che è un tormentone. Va bene, insomma, io lo faccio per ricordare. Sì, ricordiamo tutti, guardi. Ecco, se lo ricorda, io volto pagina e andiamo alla prossima selezione musicale, presentata da Manitoba featuring Edda con Fiori e Baci. E ricordiamoci che oggi è il 12 maggio, giusto, regia? E quindi Fiori e Baci. Fiori e Baci, ovviamente, mamme. Alle mamme, dedichiamo mamme. Questa Fiori e Baci. Le tue mani c'è sangue e polvere su polvere. Aria fresca sul collo, cambia la prospettiva. Manitoba scrivono canzoni dal 2017, hanno pubblicato un disco, quello che si intitolava Divorami per la Sugar nel 2018, e poi un EP collab con la Sony nel 2022, più vari singoli, insomma, nel corso del tempo. Amano la dimensione live da sempre, e infatti vanno visti probabilmente il loro potenziale proprio più dal vivo, perché sono anche molto teatrali, e hanno diviso, dicevo, il palco con artisti di tutto calibro come i Franz Ferdinand, Verdena, Skenke Nancy, Edda stesso, e poi Lali Puna, e poi Piero Pelù e tanti tanti altri. Insomma, è uscito questo nuovo singolo Fiori e Baci, che vedrà la collaborazione, appunto, di anche nel tempo di Stefano Edda Rampoldi, il che non è assolutamente poco. L'album si intitolerà Numero Zero, e quindi siamo in trepida attesa per questo gruppo duo che, insomma, sperimenta molto, e quindi è molto particolare per quanto riguarda la musica indie, perché è proprio di nicchia e va proprio cercato, vanno cercati i loro dischi. Detto ciò, regia, ultimo brano, il settimo di questa prima parte di questa puntata numero 19 di oggi, domenica 12 maggio. A presentarcelo chi è? È Andrea Piersimoni, ci presenta Respira. Mi sono lasciati sul carpo della sera prima. I baci non servono, parlami della tua vita. E ridiamo insieme finché non diventa mattina. Non diventa mattina. Continua. La musica ad alto volume, non senti le grida. I pianti e la voce che rompo per farmi sentire. Al posto di chiamare te sveglio la palazzina. Sveglio la palazzina. Sembra proprio un caso, non siamo la stessa cosa. Scappo via di casa, la città è pericolosa. Non so, non so, non so. Continua. La musica ad alto volume, non senti le grida. I pianti e la voce che rompo per farmi sentire. Al posto di chiamare te sveglio la palazzina. Sveglio la palazzina. E sembra proprio un caso, non siamo la stessa cosa. Scappi via di casa, la città è pericolosa. Non so, non so, non so. E piangi piano, alla sera non so più che dire. Che se ci somigliamo, se poi ci somigliamo. Sembra proprio un caso, non siamo la stessa cosa. Scappi via di casa, la città è pericolosa. Non so, non so. Eccolo qui, Andrea Pier Simoni, Respira, e anticipazione del nuovo EP di quest'artista che si intitolerà Città Pericolosa. Andrea, classe 2002, è cresciuto a Isernia e dal Molise si trasferisce poi a Milano per ampliare i propri orizzonti artistici. Ha fatto bene, perché da diversi singoli è arrivata la pubblicazione di questo EP che uscirà a giorni. Questo è il singolo che anticipa il tutto e si intitola appunto Respira. Prima di ciò, di passare appunto la palla alla pubblicità, volevo ringraziare ovviamente Riccardo Platone che ci ha subito lasciato il mitico Riccardo. Ci ha lasciato il microfono non aperto fortunatamente, però insomma ci ha lasciato la pole position per poi continuare a parlare appunto di musica indipendente, soprattutto insomma indipendente italiana. Un caro saluto a Riccardo Platone. Assolutamente, tanto lo risentirete qui fra 7 giorni, ovviamente. Che dire, regia, che c'è la pubblicità. Andiamo, Paoletti, la andiamo. Facciamo partire subito. Trovare la badante giusta non è più un'impresa impossibile. Oggi c'è Badabo, l'agenzia di colf e badanti per l'assistenza anziani. Ci occupiamo di tutto, dalla A alla Z. Troviamo la badante giusta per voi e vi liberiamo da ogni burocrazia, perché il cliente è la nostra prima priorità. Badabo è anche servizio babysitter, pulizia e assistenza ospedaliera. Maggiori info chiamando il 328-264-1695 o visitando badabo.eu. Badabo, serietà, fiducia e affidabilità. Scusi, può portarmi una birra? Scusi, me ne può portare un'altra? Scusi ancora, mi porta una birra diversa? Sembrano tutte uguali. Le birre del tuo locale non hanno carattere. Cambia e scegli Lab, libera arte della birra distribuzione. Da oltre 10 anni al servizio di chi ama servire buona birra artigianale. Impianti Spina, consulenza, pronta consegna dei nostri prodotti, inoltre eventi, degustazioni e formazione del personale. E potrai scegliere tra oltre 400 birre, tutte artigianali e indipendenti. Dai più valore al tuo locale con libera arte della birra e lasciati condurre dai nostri beer sommelier. Per info, seguici sui social. Erano qui prima di noi. Preparatevi ad un incontro inaspettato. Dinosauri in carne e ossa, un viaggio nel passato per scoprire i giganti della preistoria. Il tirannosauro e il diplodoco, ma anche il dodo, la tigre dai denti a sciabola e tanti altri ancora, tutti in dimensioni reali, per un allestimento spettacolare e scientifico. Dinosauri in carne e ossa, il parco a tema preistorico, da oggi aperto a San Lazzaro al Parco della Resistenza. Tutte le informazioni su dinosauricarneossa.it. Vez, stasera? Pappa buone birrettine. Sì, ma dove? Vez, andiamo al Public. Ma dov'è? A Castenaso, Vez. Beh, scherzi? È un quarto d'ora, dai. Beh, ma scherzi? Folleggi. La cucina e il bere sono pazzeschi. Ha un parcheggio infinito, tanto spazio in giardino, dentro puoi vedere i match, opzioni senza glutine e vegane. Hanno anche un bel cocktail bar, ti dirò. Beh, scherzi? Beh, ma scherzi tu? Vuoi che ti facciano anche il piano alla macchina? Public, more than a pub, in via Fiesso a Castenaso. Vuoi sostenere cultura, ricerca storica e memoria dell'antifascismo? Allora, nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione culturale Victor Serge. A te non costa nulla e così aiuti a renderci libere e liberi con la cultura. Nell'apposito modulo scrivi il codice 914304-00373. Per info, associazionevictorserge.it. Dal 10 al 12 maggio, tre giornate per ricordare Sant'Enotar Nicola. Al Centro Sociale della Pace, via del Pratello 53 a Bologna, il ricordo del rivoluzionario e poeta. Dalle 20 di venerdì 10 maggio, sovvertire il mondo con la bellezza, con interventi di Alfredo Allegri e Pierpaolo Capovilla e concerto di Gigi Cardigliano. Dalle 17 di sabato 11, poesia itinerante, musica, canti e letture e il concerto della Banda Popolare dell'Emilia Rossa. Dalle 16 di domenica 12, presentazione di Con quest'anima inquieta di Sant'Enotar Nicola. Per il programma completo cerca tre giornate per ricordare Sant'Enotar Nicola su Facebook. Radio Città Fujiko è lieta di presentarvi Easy Pop. Conduce in studio Franco Paoletti. Regia del Bolognese Volante. Ed eccoci che rientriamo in studio con la seconda parte di Easy Pop insieme a Franco Paoletti, che vi sta parlando ovviamente, e ovviamente dall'altra parte nuovamente il nostro Bolognese Volante. Esattamente. Boh. Dove volerà lei? Boh. Va bene. Fuori dalla finestra, giù dalle scale. Allora, dicevamo che nella seconda parte si apre con il nuovo singolo di Gemini. Questo strano viaggio è il titolo di questa canzone. Fra poco vi parlo anche di lui, quindi rimanete lì. Lontano dalla mia terra, con in braccio una chitarra, solo tu, abbaiando mi svegliavi e guidandomi nel buio te ne vai. Oh no, non lasciarmi solo adesso così. Torno sotto le mie stelle da qui e da qui. Questa notte di settembre, le mie gambe troppo stanche, tu chi sei? La tua voce che mi scalda, il tuo odore che colora, dove vai? E vorrei i tuoi occhi per guardare più su e trovare anche stanotte un perché. Buona stella ora, Gemini, questo strano viaggio, beh, un brano leggermente più simile alle sonorità che si sono sentite all'Eurovision. Cosa dice? Leggermente, eh? Leggermente, ma ricorda questo, un po' di più, ecco. Ma questo perché, diciamo, è stato arrangiato da grandi nomi della musica italiana, poi scritto da Danilo Kerni, se non sbaglio, Maurizio Perfetto, e gli autori sono praticamente questi qui, sono personaggi che hanno lavorato, per esempio, con nell'ultimo periodo con Venditti, oppure con Mia Martini o Zarillo stesso. E c'è da dire che il brano è nato così, insomma, dal cantante stesso, che girando appunto per l'Italia ha visto in varie stazioni, insomma, tante persone senza tetto, ovviamente, e si è appassionato, insomma, un po' alla loro storia, e ha voluto fare questa canzone un po' di denuncia per quanto succede, con insomma, una simpatica sonorità, assolutamente, perché che non guasta mai, che non guasta mai, esatto. E quindi dai senza tetto passiamo invece agli Annegati. No, ho fatto un errore, ho messo prima gli Hotel Monroe, quindi lì. Ah, ok, c'è un'inversione, va bene, ma vabbè, allora si va avanti con gli Hotel Monroe e ci presentano Aria. Sono solo in questo spazio, senza tempo, senza forma, sto soffocando. Quello che sento è solo follia, un mantra di voci perse nel buio. Il fuoco che ho dentro si sta consumando. Respiro più forte, respiro più forte. Hotel Monroe e Aria, li abbiamo già proposti, questa band. Ormai li conosciamo, sono praticamente uno di quei fiori all'occhiello, insomma, per quanto riguarda la produzione indie, diciamo ce l'hanno fatta loro, perché sono amati soprattutto dai giovani, quando appunto ci sono questi tour in centri sociali e quant'altro, c'è sempre tutto esaurito quando ci sono gli Hotel Monroe, che vorremmo rivedere anche a Bologna, perché no? Chissà. Chissà, questo è il loro nuovo singolo, si intitola Aria, ma attenzione, ci sarà anche un album a breve, se non sbaglio, e proseguirà la corsa dopo l'album ormai famoso, Corpi Fragili, era il 2019, comunque passo dopo passo riescono così a mettere così al loro attivo anche una discografia ben corposa, importante e molto bella, perché sì, effettivamente non si sono fermati mai, anzi sono molto prolifici, se così vogliamo dire. Che dire, che dopo i Hotel Monroe Che appunto ritorneranno con questo Aria, questo nuovo singolo, questo album. Andiamo avanti con Regia, la prossima, quello che ho annunciato prima con Annego, esatto. Sì. Bolo, la B, Bolo di Bologna, la B di Bologna, B di Bologna, Bolo come Bologna, appunto. Annego, vediamo un po' cosa succede. Ascoltiamo. Per un cuore, per potermi allontanare, azzerare ciò che provo per te, per poi non tornare più. Tu hai paura dell'amore, io lo sento in me vibrare. E dici che non mi puoi avere, io che non posso lasciarti andare. Quando sono da solo un po' ti odio, ma se ti ho davanti sento la magia, come quando mi disegno un cuore sopra il finestrino come fossi mia. Però tu non sei pronta ad amare qualcuno per la seconda volta, e so quanto mi costa quando vengo ferito, poi mi do la colpa. Nudo, ci credevo in noi, nascondi ciò che pensi per non ferirmi, e così facendo soffro doppio, questo ciò che vuoi. Non dimostri ciò che senti, io mi sento stanco, tu non credi ciò che perdi mentre io ti guardo. Sembra che non ti interessi niente, sei di ghiaccio, posso solo ipotizzare, non ti freghi un cazzo. E quando tu mi dici che sono troppo per te, come dovrei sentirmi, eh? Dovrei ringraziarti, poi dimenticarti, hai scavato il mio cuore con le mie lacrime. Però forse ti ho amata per un istante, quando ti ho lasciato è stato devastante. Ora mi odio perché sono troppo, sì troppo, ehi, però grazie. Non mi riconosci più, ed io ti guardo e mi confondo, e in un secondo annego e vado giù, e adesso non piango, ora mi riconosco e ti guardo, e non mi confondo, e in un secondo risalirò. Io non posso salvarti, non sei fatta per me ma per autosabotarti. Ma siamo ancora qua e lo sappiamo entrambi, che siamo tu e metà in un fuoco di sguardi. Tu, non mi... Abbiamo capito dove si annega nelle tempeste ormonali, non solo nell'amore, nell'insicurezza, nelle lacrime. Terribile affogarsi nelle tempeste ormonali, terribile. La canzone è appunto un viaggio in tutte queste sensazioni per quanto riguarda questo cantautore giovanissimo, che si chiama Jacopo Bolognesi, e Bolognesi è in arte solo Bo. Nasce a Milano nel 99 e comincia a scrivere le sue prime canzoni già a 19 anni, e poi piano piano dei singoli fino ad arrivare insomma a questo ultimo singolo, e sembra che sia molto così apprezzato soprattutto nei social. E in effetti ha una gran voce, gradevole voce anche, ci è piaciuto molto insomma questo tessuto sonoro, che dire, che se sono rose fioriranno ovviamente, quindi ci è piaciuto presentarlo. Complimenti anche a Bolo. Rendo edotto che maggio è il mese delle rose, finalmente, quindi è appropriato parlare di rose che fioriscono. E quindi fioriscono, adesso. Certamente. Finalmente. Le ha regalato le rose a sua mamma? Certamente, erano direttamente nel suo giardino. Ah, okay. Le ho raccolte direttamente dal rosetto. Si è punto il dito? No, perché ho i guanti da giardiniere. Ah, ok, va bene. Allora, la prossima ha fatto il suo dovere di figliuolo. Certo. Bene. Allora, la prossima, stavamo dicendo, Damien McFly ci presenta Super Lover. Sentiamo Daniel McFly. Gray skies are holding back the rain. I really wanna talk but it's hard to explain. Cradled by the silent moves out of waves. I just see you again and again. I close my eyes and see your face. Fitting up the boxes, staring in the space. Staring in the space. Control, but now they got us waiting on the line for the next train home. That is cutting at the same small towns where everybody stays and they can't get out. When they say it's over, then we're turning super lovers, super. pacing the room as I try to explain why my heart and my head, they just keep on going separate ways. Look at your friends in their golden cage. Look at the clouds and how fast they change. Sometimes life's so strange. Sounds where everybody stays and they can't get out. When they say it's over, then we're turning super lovers, super lovers. Che pronuncia graffiante molto americana, Damien McFly in realtà è un cantautore padovano che con la sua voce graffiante e le melodie senza tempo del folk del sound per così dire, mi stavo soffocando con la caramella, continua a conquistare il pubblico. Pensate, oltre a essere costantemente in tournée dove lo chiamano, ha avuto grandi consensi sia in Italia che all'estero. È tra così le coccarde che può vantare, diciamo, così tra le varie esperienze, è addirittura aver lavorato con Cesare Cremonini per quanto riguarda gli arrangiamenti dei brani Chimica e Psycho. Quindi che dire, che è veramente un artista curioso. 10 anni di carriera che ha portato lui, almeno 13 milioni di streaming sembra tra varie piattaforme, e quindi arriva per lui questo nuovo singolo ed è, come dire, entro l'anno già annunciato il suo album. Lui però in realtà è un padovano doc e quindi mi fa immensamente piacere così ricordarlo. Sarà, potrete vederlo a Cittadella, quindi a Padova il 22 giugno, però anche a Milano il 13 giugno, giustamente. E poi, vabbè, insomma, ci sono altre date, andate nel sito a guardare, perché quale sito, lo specifichi Paoletti? Il sito appunto dell'artista, e quindi andate sul sito del signor Damien McFly, giusto? Scritto come? Tutto attaccato, Damien McFly, okay. Tutto attaccato. www.damienmcfly.com, esattamente. Meglio troverete dirlo. E troverete tutte le varie istruzioni. Sì, esatto. E tutte le varie istruzioni per quanto riguarda il web site, ma c'è anche Facebook e tutte, insomma, le altre pagine, e di conseguenza da Twitter a Facebook, Instagram, eccetera. Andiamo avanti, e potrei continuare, non continui Paoletti, vada avanti. E a questo punto, visto che mi ha nuovamente cambiato la scaletta, io mi sono perso, annuncio Selene, Lacrime buone. Mi dicevano tutto si dimentica, i tuoi occhi che non voglio più indossare, ed i vuoti che hai lasciato in una lacrima fanno fare al cuore battiti mancati. Quando chiedono di te non so che cosa dire, quando parlano di noi mi sembra abituale. I miei fiori, sai, ti cercano risposte, ed io cerco di sparire. Sono incasinata e non l'ho mai ammesso, perché questo sfondo adesso mi sta stretto. Ma se chiudo gli occhi tu sei qui e non so dimenticare. Questa monotonia regala schiaffi e lacrime buone. Sarà che abbiamo dato tutto e ancora tutto non è abbastanza. Resto qui chiusa in gabbia, ferma, legata a questo confine. Mi dicevo non abituarti, sono i miei occhi che continuano a cercarti. Ti guardavo dentro e tu non c'eri, eri sempre ovunque, ma mai nei giorni neri. La mia mente che non regge più un pensiero, se mi fermo io ti giuro che ci annego. Sono sommersa di rapporti astratti, ma alcuni li ricordo a tratti. Sono incasinata e non l'ho mai ammesso, perché questo sfondo adesso mi sta stretto. Ma se chiudo gli occhi tu sei qui e non so dimenticare. Questa monotonia regala schiaffi. Selene, all'anagrafe Rita Fusano, cantautrice calabrese, classe 94, e la sua musica è sempre stata la sua compagna sin da bambina. Decide di formarsi, per quanto riguarda appunto la cultura musicale, e si iscrive alla scuola di alto perfezionamento Canoro, oltre che insomma le scuole musicali classiche. Dopo l'uscita del precedente singolo Il peso dei miei sbagli, arriva con questo nuovo singolo che abbiamo così ascoltato, finito di ascoltare ora, Lacrime buone. A questo punto, regia, abbiamo anche la prossima selezione musicale. Velocemente, chi è? Piatto numero, si torna in inglese. Abbiamo i Gram of Fun con Complicated Plan. I'm chasing highs like I'm chasing the sun. Forget the feeling, feel it like we are one. Though every time I touch the flame I could burn. I like to hold the water back till it burns. Shut your lips. Move your hips. Show your nips. Take some hits. Fill me up. Chlorophyll. Speak as palsy. I'm a complicated plan. Plant, Gram of Fun, fa molto Barry White, molto sophisticated music, è molto Monte Carlo Night. È vero, è proprio questo, è un bellissimo pezzo. Pensi un po'. Molto lounge per un aperitivo, certo. Una piscina, a bordo piscina. Molto bene, sì, da sottofondo sta benissimo e poi si muove il piedino, vero? C'è non da so dire. Qui cosa si muove, Paolo, sono qui fermo come un monolito, non mi muovo. Va bene, stia là. Sposto che solo io... dei cursori. Stia io non là mi muovo. Che le racconto un po' di questo pezzo. Ad appannaggio dei Gram of Fun, che c'è anche un featuring, che bello quando appunto come l'Eurovision ci sono questi contatti e questi interscambi. Il singolo che abbiamo ascoltato è del gruppo No Funk Estone, Gram of Four, e si chiama Complicated Plant. Allora, cosa è successo? Viene remixato dal produttore australiano che lo ha così ascoltato, che sta però vive a Lisbona, ovvero sia Ja Funk, e gli ha messo delle linee di basso così succose, arricchiti da questi synth bellissimi e molto travolgenti, e poi queste voci un po' più calde e rilassante. E cosa viene fuori? Viene fuori questo singolo che effettivamente vive una seconda vita. Quindi dall'Estonia arriva in Europa, ma arriva proprio dall'Europa, quindi da Lisbona, però passando per l'Australia, perché il tocco è tutto australiano di questo DJ e curatore del suono. Molto che dire, sofisticato. Molto bello, andiamo avanti. Spero Paoletti. Di essermi spiegato, vero? Sì, sì, certo, si è spiegato benissimo, come un libro stampato, eppure bene, perché sono anche dei libri stampati male. Va bene, io andiamo racconto avanti con poi le canzoni. Allora, se non sbaglio, nella mia scaletta brano, c'è sì. Nartico, ritorna con un nuovo singolo dal titolo La Base. Penultimo brano di questa puntata. sbaglio sempre allo stesso modo. Sinistro per terra, l'altro nel vuoto. Oscillo come fossi in curva su una moto. La cosa dura non è farlo, è farlo di nuovo. Siamo gli stessi ma diversi da anni fa. Parliamo del lavoro e l'università. Stasera è piena di pensieri, penso a ieri. Ma ci riempiamo sti bicchieri tanto per cantare. Sento gli occhi addosso, sento sopra un dosso. Forse non ricordo se era un giorno storto, forse l'ho rimosso. Sento un vuoto d'aria, serve un cambio d'aria. Ho bisogno di stare ad un passo dal niente, sentire la base. E non avere più l'impressione di cadere a pezzi. Pensi a cosa pensi e non sentirmi come un aquilone. In balia dei venti, in balia dei venti. Qua e là, su e giù, su. Sparti acqua come sparti vita. Manca il fiato, mi indichi l'uscita. Serve forza come la camicia. Ogni giorno, ogni ora, ogni anno. Pensare ancora, pensare di farlo. Non c'è neanche un premio o dei regali. Piacere ingegnere di castelli mentali. Sento gli occhi addosso, accento sopra un dosso. Forse non ricordo se era un giorno storto, forse l'ho rimosso. Sento un vuoto d'aria, serve un cambio d'aria. Ho bisogno di stare ad un passo dal niente, sentire la base. E non avere più l'impressione di cadere a pezzi. Pensi a cosa pensi e non sentirmi come un aquilone. In balia dei venti, in balia dei venti. Nartico, la base. Paoletti, ci racconti qualcosa di ma questa base? Ma lo conosciamo base, già, anche lei lo conosce. Io lo conosco. No, lei lo conosce, ma non sa di conoscerlo. Semplicemente, ecco. Il precedente brano si intitolava Il Bologna in Champions League. Ah, che sì, ha spopolato, allora sì, me lo ricordo. E sta spopolando ancora adesso per gli ottimi risultati. Forza Bologna! Esatto, per gli ottimi risultati. Ma a traino c'è anche il video sul Bologna che sta andando benissimo. E Nartico noi lo conosciamo soprattutto perché è anche è stato scelto come il volto social dello Zecchino d'Oro. E non solo, ha scritto canzoni per Ginevra Lamborghini, per la Stefania Orlando, per Bobby Solo. E ancora praticamente è esordito a Propaganda Live a Teleton. E poi l'abbiamo visto a Porta a Porta, a Rai 1, Rai 2, la 7. E poi bamba, l'abbiamo roba, visto Paoletti. Anche come open tanta act nel concerto di Arisa. Quindi che dire, che insomma, più d'Axex ha avuto dalla più letta. Di così, questo sta diventando forte, fortissimo. E noi l'avevamo detto e l'avevamo suonato in lungo e largo. E quindi che dire, Nartico, che siamo alla fine della puntata, Paoletti. No, diciamo che Nartico, noi siamo qui, puoi anche passare, insomma, salutarci. Noi vieni a trovarci, vieni a trovarci. E che dire, che siamo giunti al termine. Sì. È già finita. È già finita, chiudiamo con un altro brano dance. Sì. Che dal nome non si direbbe, no, assolutamente. Gaspare No è l'artista, ci propone Spazio Caffè. Però sentite un po' qua che roba. Mi reinvento da capo ogni volta di più, che dimentico quanto sto bene quassù, a dipingere il mondo da fuori. Non in 16 noni, dottor Jekyll fa botte col suo Mr. Hyde. Non ti dedico niente, non prende il wifi. Spazio insufficiente in memoria per la solita storia. Di nuovo viviamo nuovi racconti che viaggiano a metri dal suolo. E allora troviamo il modo di batterci il petto con una parola. Riprendo tutti i giorni buttati all'aria come satelliti. Che ho di dirti che oggi sto meglio, ma no, meteoriti frantumano i resti di due stelle cadenti. Perdono, puoi ancora prendermi in giro, futuro, passato, remoto, e allora troviamo il modo di fermare il tempo senza una parola. Riprendo tutti i giorni buttati all'aria come satelliti. Vedo Paoletti distratto. No, ma perché? Allora, musica un po' pop dance. Molto dance, molto sì, pop. L'abbiamo voluto con noi perché, insomma, diciamo che lui non è nuovo a, così alle sue canzoni dance, anzi è assolutamente un personaggio in ascesa. E che dire ancora di più, che è giovanissimo, e questo è il suo nuovo disco che, insomma, sta lanciando per l'estate che sta arrivando. Oggi è un giorno estivo praticamente. Praticamente sì, dobbiamo, ci stiamo chiudere, già proiettando Paoletti verso l'estate. A questo punto con... dobbiamo chiudere con Gaspare Noè, il suo spazio caffè. Noi ci salutiamo, regia. 19esima puntata, ahimè sì, di Easy Pop finisce qui. Abbiamo un po' parlato dell'Eurovision Contest Song, dato qualche così informazione aggiuntiva. Basta, abbiamo preparato. Vi lasciamo alla programmazione di Radio Città Fujiko, che prevede fra poco meno di una mezz'oretta le corrispondenze della nostra amica Dani Coraucci. Perfetto, quindi ascoltatele, sono sempre molto lettere molto interessanti. Molto interessanti. Mm-hmm. Sì. Speriamo di avervi fatto trascorrere un'oretta spensierata con la nostra musica indie. Ringraziamo coloro che ci hanno scritto. Non siamo riusciti a commentare tutto, però insomma, noi saremo qui fra 7 giorni. Quindi Franco Poletti si congeda, il Bolognese Volante altrettanto. Bye bye. E ci sentiamo domenica prossima. Fra 7 giorni. Fra 7 giorni. Bye sempre. Bye. Ciao. Avete ascoltato Easy Pop, che vi dà appuntamento a domenica prossima, alla stessa ora, e vi augura un buon proseguimento sulle frequenze di Radio Città Fujiko. Da da da.